La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 29 secondi in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino, come sempre, molto grato, vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Oggi penultima puntata della lunga serie, sia pure ovviamente spezzettata nelle settimane con le trasmissioni dedicate all'attualità, d'Italia non per giovani, con un'altra selezione tra tutti coloro che ci hanno scritto per segnalarci la loro volontà di intervenire su questo tema raccontando la loro storia, e quindi abbiamo due testimoni anche oggi. Nella prima parte una storia di grande successo di giovanissimi, successo creato studiando bene qua ma diventando giovanissimi imprenditori qua, però poi andando molto lontano dall'Italia ma già reinvestendo, sia pur giovanissimi, anche in Italia. Mentre la seconda storia, il secondo testimone, lo sentirete, un italiano che si trasferisce dalla sua azienda, dalla sua subsidiaria italiana di questa azienda tedesca in Germania, direttamente chiamato dall'azienda tedesca, sta in Germania e lì valuta un po' in termini comparativi la sua esperienza in Italia e la sua esperienza lì, ma vedrete che la conclusione è: detto questo, io e mia moglie e i figli vorremmo tornare indietro. Ma cominciamo con la prima storia, e io ringrazio Nunzio Martinello che si è reso disponibile a raccontarcela. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie a lei. Allora, lei quanto va? Per i 28 anni? Sì, esatto, appena compiuti. Appena compiuti, dove è nato? Formazione? Io sono nato a Cosenza, ho sempre vissuto a Padova, e formazione ho studiato sia, hanno delle basi informatiche e di economia, anche se in realtà non ho mai preso la laurea. Sì. Ho mollato prima per andare a lavorare, mi sono sempre occupato di digitale, e 5 anni fa ho fondato con due amici e soci un'agenzia di consulenza e sviluppo digitale. Cioè, a 22 anni, perché voi siete coetanei, lei, esatto, Nunzio Martinello, Nicola Possagnolo e Sebastiano Favaro, avete cominciato a fare gli imprenditori fondando una società improntata sul digitale. E l'idea qual era? L'idea era di aiutare le aziende a comprendere le opportunità offerte al digitale e sviluppare per loro dei prodotti e dei servizi. E l'abbiamo fondata direttamente andando in India nel 2012. Ecco, il punto è: voi l'avete fondata a 22 anni andando in India. Sì, esatto. Sì, diciamo che sia per una questione soprattutto di opportunità nel mercato indiano e anche di semplicità effettivamente nel reperire risorse qualificate e a un prezzo sostenibile per una startup. Diciamo. Perché l'India è notoriamente una nazione che, oltre a ottimi matematici, ingegneri eccetera, anche nel settore degli sviluppatori e dei programmatori, insomma, ha un capitale umano di straordinaria eccellenza, vero? Esatto, stiamo parlando del 70% dell'outsourcing al mondo viene fatto in India. Noi già prima di fondare l'azienda avevamo avuto delle esperienze proprio nel lavoro a distanza con aziende indiane che sviluppavano i nostri prodotti. Ci siamo accorti appunto della grande opportunità, nonostante non fossimo particolarmente soddisfatti. Particolarmente soddisfatti, mi sa che è caduta la... andare lì e assumere direttamente. Ma quando lei dice abbiamo deciso di andare lì, chi vi ha aiutati a muovervi lì? Allora, diciamo che già abbiamo fatto moltissimo direttamente online col digitale. A dire la verità, un grosso supporto l'abbiamo avuto a livello di contatti dall'ICE, Ministero dello Sviluppo Economico, che in effetti ci ha messo in contatto con dei professionisti che ci hanno supportato nella parte di startup, diciamo. Nonostante questo, in realtà ci siamo dovuti poi fondamentalmente arrangiare, che ormai è molto più semplice andare all'estero ad aprire, si riesce a fare quasi tutto online. Ovviamente poi ci siamo dovuti trasferire in India per gestire le operazioni. E a Bangalore l'impatto con, diciamo, l'aspetto amministrativo, burocratico, pubblico dell'ecoambiente indiano come si è rilevato? Bangalore intanto è un posto molto interessante per l'India, perché nasce, ormai sono 30 anni che ci sviluppano aziende IT, quindi legate al mondo della tecnologia. Devo dire che forse come italiani abbiamo avuto il vantaggio che parte della burocrazia indiana è magari è simile a quelle italiane. Sì, non troppo diverso. Insomma. Sono problematiche, sono simili. Dall'altro lato, però, lì abbiamo trovato delle agevolazioni, tutta una serie di servizi che ci hanno permesso di essere molto più veloci, che invece in Italia ancora non c'erano. Ancora non ci sono, magari. Ma i capitali, sia quelli proprio all'inizio, sia quelli per andare in India, come, cioè, siete di famiglie ricche, ricchissime, come li avete trovati i capitali? No, nessuno di noi viene a un background particolarmente ricco. Diciamo che noi ci siamo autofinanziati, lavoravamo prima e in più diciamo che abbiamo creato l'azienda con i fondi derivanti proprio dai servizi che facevamo. L'operazione per andare in India nel 2012 ci sarà costata meno di 10.000 euro. Meno di 10.000 euro? Esatto. Sì, avevamo 22 anni, insomma, quindi ovviamente non potevamo permetterci diversamente. Però sì, il fatto è che in effetti è molto semplice aprire l'azienda all'estero, cioè per aprire a Londra probabilmente bastano 30 euro in questo momento, quindi non è tanto il costo di apertura e di pratiche eccetera. Ormai soprattutto all'estero la parte burocratica di proprio per mettere in piedi una società sta diventando sempre più semplice. Però il vostro team di 25 persone lì era pagato con quanto già attraverso quello che avevate attivato in Italia generava cassa alla vostra società? Esatto, ma in realtà vabbè, ovviamente non abbiamo preso subito 25 persone, siamo partiti con 4, però il margine operativi che avevamo dalla rivendita dei nostri servizi ci hanno permesso nel giro di 12 mesi di essere in 25 praticamente. Di essere oltre break even. E a questo punto com'è che avete deciso di reinvestire qua? Allora, beh, intanto noi comunque abbiamo sempre tenuto come mercato di riferimento italiano, quindi tutti i nostri clienti sono sempre stati qua, poi dal 2014 abbiamo anche la sede fiscale in Italia. E, diciamo che un po' per un'opportunità in no, termini... questo ha fatto bene a dirlo per evitare le osservazioni che già arrivavano, beh sì, beh certo, lavorano per i clienti italiani e poi però pagano le tasse. No, sede fiscale in Italia. Purtroppo paghiamo tutte le tasse. Anche noi in Italia, purtroppo per fortuna, diciamo. No, allora, quindi abbiamo aperto anche, ovviamente stiamo offrendo servizi di livello sempre più alto nel corso degli anni e cominciamo anche a avere bisogno di essere davvero anche all'interno delle sedi dei nostri clienti, per cui ovviamente lato modello di business in questo momento mi conviene lavorare con delle risorse italiane, anche perché possiamo permetterci in effetti una certa qualità, quindi anche un certo costo, oltre a essere diventati finalmente attrattivi per i talenti italiani, cosa che ovviamente nel momento in cui a 22 anni stavamo aprendo la data, per noi risultava praticamente impossibile riuscire ad assumere dei programmatori, sia per una questione di costo che per una questione di attrattività. Azienda. Ma se uno dovesse fare il paragone tra le risorse formate in termini di capitale umano, tra quelle che avete trovato e preso a cooperare con voi in India a Bangalore e quelli che assumete qua, visto che da novembre avete inaugurato questa nuova sede in pieno centro a Padova, ecco, in termini di qualità della formazione del capitale umano, siamo indietro, avanti, con qualche lacuna, ma anche con qualche aggiunta rispetto agli indiani con cui lavorate? Che giudizio date? Allora, altro su questo tema, proprio sui software developer italiani e indiani si discute molto, diciamo che a livello di qualità delle risorse umane, nello specifico nello sviluppo software, in Italia è a livello molto alto, sia perché l'università è davvero complessa, anche perché in realtà chi va in quella direzione lo sta facendo con una passione ben precisa. Normalmente diciamo che andare a studiare informatica non è la scelta di chi non sa che cosa, certo. che cosa fare. In India invece non c'è proprio questa modalità, non si sceglie per andare a fare informatica, ma moltissimi lo vanno a fare perché si sa che poi si troverà lavoro. È stata un po' sdoganata, che vuol dire che la qualità media degli sviluppatori è molto più bassa in India. Però sono 1.300.000.000 di persone, di cui 100.000 ogni anno cercano di entrare all'Indian Institute of Technology, e da lì ovviamente i 100, 200, 300 che si laureano ogni anno sono di una qualità estremamente alta. Rappresentano quindi una soluzione della creme su numeri di quella impressionante portata. Esattamente, ma poi c'è anche da dire il fatto che in Italia informatica, cioè informatica, ingegneria informatica sono facoltà che formano persone di un livello molto alto, diciamo, il corrispettivo degli architetti, sono architetti del software. E quindi cosa succede poi? Che comunque per qualsiasi altra tipologia di lavoro che io abbia bisogno di fare nello sviluppo sono costretto a utilizzare questo tipo di risorse sovraformate. Mentre in India io ho accesso a diverse tipologie di risorse, ossia quelli davvero in gamba, in grado di progettare dei software molto complessi e lavorare a livello architetturale, così come anche le persone che possono limitarsi a sviluppare magari l'HTML e CSS. Ma il fatto di essere... Voi assumete anche giovanissimi, anche in Italia, oppure no? Aia, non si sente più. Pronto? Sì, mi sente? Ecco, sì, adesso si è tornata alla linea. Assumete anche giovanissimi oppure no? Assumiamo anche giovanissimi, ovviamente, solo dopo aver assunto prima un senior in grado poi di fare l'opportuna formazione. Quindi avete comunque dipendenti più vecchi di voi? Abbiamo dei dipendenti più vecchi noi, diciamo che il dipendente più vecchio in questo momento ha 35 anni. Che tipo di contratti è chi lavora con voi? Sono tutti a tempo indeterminato. Tutti a tempo indeterminato. E posso fare un'altra domanda? Nella vostra esperienza di i clienti, il vostro cliente medio più o meno, che tipo di azienda è e che cosa vi chiede? Siete voi che lo stimolate incontrando persone che non hanno un'idea precisa di che cosa i servizi digitali possono aggiungere, oppure l'impresa che si rivolge a voi c'ha le idee già chiarissime? No, allora, trovare aziende che hanno le idee già chiarissime, anche perché adesso noi ci stiamo spingendo molto su dei servizi particolarmente complessi e di nicchia, quindi spesso siamo proprio noi a dover formare le aziende o dover dare delle idee su quali sono le opportunità. Generalmente comunque noi ci siamo trovati a lavorare principalmente con le PMI. Solo nel corso degli ultimi anno e mezzo stiamo lavorando invece con soggetti corporate molto grossi. Generalmente siamo noi che andiamo dal cliente, analizziamo la situazione della sua azienda, capiamo quali sono le opportunità e poi gli facciamo una proposta di strategia digitale o di sviluppo di nuovi modelli di business o di... Comunque il portafoglio ordini non vi preoccupa? No, siamo fin troppo pieni. Fin troppo pieni. Allora, io ringrazio Nunzio Martinello e mando anche un abbraccio a Nicola Possagnolo e Sebastiano Favaro, perché effettivamente, voglio dire, 22 anni, andare in India, tornare a reinvestire qua, sembra un sogno. No, è la realtà, che giovani capaci, bravi e con le idee chiare professionalmente da quando erano giovanissimi dimostrano, come si vede, malgrado tutte le difficoltà in Italia, che ce la si può fare. Quindi bravissimi e anche una punta di invidia per chi lavora con voi, sia imprese, sia i collaboratori e dipendenti. Noi adesso, dopo l'intervallo sull'informazione stradale, dopo un minuto andiamo al nostro secondo testimone. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in studio e dopo Nunzio Martinello e insieme ai due soci giovanissimi fonda questa società, 22 anni, la sviluppano in India, tornano a reinvestire in Italia per l'architettura digitale e la consulenza d'imprese. Andiamo invece a Stanislao De Rosa. Buon pomeriggio e grazie Stanislao. Da dove ci stai parlando? Ciao, buongiorno. Stiamo chiamando dalla Germania, da Braunschweig, vicino ad Hannover. Vicino ad Hannover. E come sempre, dove sei nato, dove ti sei formato? Allora, io sono nato a Battipaglia, in provincia di Salerno, ho 38 anni e ho frequentato all'epoca la ragioneria, poi all'età di 19 anni mi sono spostato a Milano per frequentare la Bocconi, mi sono laureato. Sì, no, dicevo che scrivevi che tuo padre ti disse: attento perché si parte, non è detto che si ritorni. Esatto, queste sono state le parole di mio padre quando gli ho detto: papà, io vorrei andare a Milano a frequentare l'università lì, e lui ha detto: ok, va bene, noi ti diamo una mano, ma tieni presente che tornare a casa non sarà poi così facile. Scontato. Infatti... Padre ferroviere, madre operaia, dicevi, quindi insomma una famiglia normalissima. Esatto, famiglia normalissima, quindi appunto mi hanno poi con i loro sacrifici, con le borse di studio, mi sono laureato in Bocconi. Però c'è stata una prima esperienza tedesca, prima ancora di laurearti, mi hai detto. Esatto, praticamente proprio a cavallo della laurea ho frequentato per 6 mesi l'università a Colonia, quindi ho fatto un semestre all'estero in Germania, avevo studiato già tedesco durante l'università ed ero uno dei pochi che all'epoca aveva scelto come seconda lingua il tedesco, quindi c'era l'opportunità di fare questa esperienza in Germania a Colonia, ho fatto 6 mesi a Colonia. Come ti sei trovato? Bene, benissimo. Colonia è una città molto bella ed è molto simile anche a Milano, quindi era, sì, per me era, come dire, quasi stare a casa. Poi è anche vero che i periodi di studio all'estero sono sempre periodi particolari, quindi comunque tu ti trovi all'estero. Da consigliare molto a chi deve scegliere cosa fare, con un occhio preciso al mercato e alle specializzazioni in cui vuole lavorare, ma facendo pezzi di percorsi almeno all'estero. A quel punto sei tornato, ti sei laureato, sei a Milano. Esatto, torno tramite, con l'università noi abbiamo un placement interno, quindi praticamente venivano postate all'epoca queste posizioni, io mi candido per una posizione in un'azienda, in una multinazionale tedesca, e vengo praticamente, comincio per una posizione di stage, quindi comincio con uno stage nel controllo di gestione e vendite, sì, in sales controlling, dove ho avuto la fortuna di lavorare comunque con persone in gamba, di avere una responsabile molto in gamba, che praticamente mi ha insegnato delle cose che poi mi hanno reso la vita facile anche adesso in Germania. Quindi ho avuto la fortuna nella mia esperienza lavorativa in Italia di trovare sempre persone molto in gamba, quindi responsabili in gamba e persone in gamba, dalle quali ho sempre potuto imparare. Nella sussidiaria italiana di questa multinazionale tedesca, che per capirci è leader mondiale nell'elettronica come componentistica automotive, eccetera eccetera, ecco, detto questo, dalla filiale italiana a invece l'impresa in tedesco, l'impresa nella sede centrale, insomma nel paese dove nasce e dove si sviluppa, ci sei arrivato perché c'è una comunicazione diretta tra le presenze nazionali del gruppo e la Germania, oppure sei tu che ti sei dato da fare? Allora, è stato un po'. Noi comunque, come Italia, come filiale italiana, nel gruppo siamo un'eccellenza. Quindi come italiani siamo molto ben visti nel gruppo. Lavoriamo, io all'epoca lavoravo spesso con la filiale, con casa madre, e questi contatti, queste conoscenze, questo network che mi ero creato mi ha aiutato a venire su. Tant'è che c'è la possibilità anche tramite la filiale italiana di andare all'estero, ma è molto difficile, non è tanto facile. Invece a me è successo che il mio attuale responsabile, nelle mie visite mensili in Germania, mi fa: senti, c'è una posizione libera da noi, perché non vieni su? E tu volevi, oppure di fronte alla proposta concreta hai esitato? Allora, esitato no. Questa era comunque un'esperienza che con mia moglie ne avevamo già parlato, che comunque a me è una cosa che volevamo fare questa esperienza all'estero, perché comunque tutte e due... Io con l'Erasmus, mia moglie anche lei aveva tramite l'Erasmus già vissuto in Germania ed era rimasta anche dopo qua in Germania, quindi avevamo tutti e due questa esperienza all'estero, l'avevamo già fatta, però ho detto ok, proviamoci e proviamo di nuovo ad andare all'estero. Ma le prospettive di carriera e avanzamento sarebbero state le stesse in Italia nel gruppo piuttosto che andando lì? In Italia sarebbe stato molto, molto più difficile. In Italia sarebbe stato molto, molto più difficile, perché non siamo in pochi, le posizioni comunque non sono tante, e quindi diciamo che l'imbuto è quello, non era così semplice. Poi ci sono state diverse situazioni, come dire, c'era anche un poco di insoddisfazione, perché dopo 4 anni che facevo quello che stavo facendo non vedevo un percorso di crescita per me, non vedevo sviluppi, quindi ho detto ok, adesso è il momento. E allora entriamo nel capitolo della vostra esperienza, tu e tua moglie, ecco. Andando lì. Adesso che puoi tirarne un bilancio, sono passati penso qualche anno, sono 5 anni che stai lì, fai capire a caso in maniera sintetica, A, dal punto di vista professionale, B, dal punto di vista di come vi trovate come gruppo familiare, e dal punto di vista di ciò che il paese vi offre al di là e al di fuori dell'azienda, un po' di bilanci comparativi, per così dire. Allora, io dopo 5 anni, perché appunto sono arrivato nel giugno del 2012 in Germania, se devo fare livello comparativo cominciando dal percorso lavorativo, qua quando sono arrivato con un percorso di crescita concordato con il responsabile, con l'azienda, che poi si è realizzato, quindi appunto sono entrato in un programma manageriale, ho raggiunto certo livello, adesso ho un gruppo di persone che gestisco, e questo era stato concordato comunque all'inizio dell'esperienza, e quello che è stato concordato è stato poi mantenuto. E assolutamente, assolutamente positivo. Lavorativamente parlando, qua io mi trovo bene, lavoro bene, ho comunque è un bell'ambiente. Molti stranieri nel gruppo che io del quale sono responsabile, ho 3 cinesi e 2 tedeschi. Merito esclusivo o relazioni? Merito. Qua quello che ho imparato nell'azienda, e che vedo anche comunque in altre aziende, perché dove abito io è il mondo di Volkswagen, praticamente. Certo. Non c'entra se tu sei straniero o sei tedesco, se sei in gamba, vai avanti. Cioè loro comunque c'è meritocrazia. Quindi da questo punto di vista, diciamo, le cose positive, hai elencato una serie di cose positive tutto sommato, però nella lettera ci sono anche delle cose insomma non troppo convincenti, perché tu e tua moglie dici noi vogliamo tornare in realtà. Esatto, noi vogliamo tornare, perché comunque dopo 5 anni qua ci rendiamo conto che questa non è casa nostra. Quindi noi siamo sempre, non siamo a casa nostra, abbiamo sempre quella saudaci, voglio dire, ma non solo perché quello che può essere il clima, quello che può essere la vita, le relazioni con le persone. Io dico che le chance che appunto potrebbero avere i miei figli in Italia sono le stesse. Ecco, è questo che mi colpisce. Qual è la Germania? Perché abitualmente noi siamo abituati a ripetere, io almeno, che a me il sistema di scolastico tedesco, il canale duale della formazione professionale molto più praticato e con molta più dignità e risorse che in Italia, e anche a livello universitario le università professionalizzanti, in realtà dotano il capitale umano di caratteristiche, skills, abilità molto più confacenti a soddisfare poi la domanda di lavoro delle imprese piuttosto che in Italia. Mentre tu dici no, l'esperienza che abbiamo noi delle scuole è diversa. Guarda, io ho l'esperienza della scuola elementare e quello che a me... quello che a noi non piace del sistema tedesco è uno che c'è scarsa mobilità sociale, quindi quello che è l'ascensore sociale non c'è. Cosa che a noi, per dire, che noi non ci toccherebbe, perché noi siamo già a un livello buono, però vedi che questo ascensore sociale non c'è. Per dire, sulla scuola elementare in Germania funziona, a parte che poi in Germania ogni regione, ogni Länder ha una sua organizzazione. Gli ordinamenti sono diversi. Ebbene no, certo, è federale. Ma anche ogni scuola si organizza in modo diverso. C'è un'autonomia completamente diversa dalla nostra, sì. Esatto. La scuola tedesca è così che dopo i 4 anni di scuola elementare si va subito al liceo, cioè quello che c'è il liceo. Quindi se tu i primi 4 anni per N motivi non sei stato il massimo a scuola, e si dice ok, tu non andrai al liceo, dove comunque hai poi le chance di fare di avere il diploma e di andare all'università, piuttosto vai a un istituto tecnico, piuttosto vai a un istituto professionale, già a 10 anni, in quarta elementare, quindi dalla quinta elementare. Cosa che io dico, ok, questo sistema, secondo me, sono bambini, lasciamoli crescere. No, ma questa è un'idea completamente diversa. E capisco soprattutto che se stiamo parlando poi di addensamenti a più basso reddito e a forse concentrazione etnica, eccetera, eccetera, in quel caso è più complicato per i ragazzini avere davvero l'eguaglianza delle opportunità, perché questo è il problema in Germania. In una scuola così. E questo è un problema. Altro che. Però ci dici che anche nell'organizzazione della famiglia, dice, lì è tutto organizzato, per cui se le lavoratrici hanno figli, si devono occupare dei figli. Certo, c'è il part time. Esatto. Però... esatto, questa è stata la cosa che a noi ci ha anche promosso. Mia moglie lavora nella stessa azienda, noi lavoriamo appunto nella stessa azienda, siamo venuti qua e anche lei dopo un po'. E guardavano male tua moglie lavorare. Perché lei invece faceva la stacanovista e lavorava a tempo pieno. Esatto, mia moglie che lavorando 35 ore a settimana, quindi come dire 35 ore a settimana in Italia è un part time praticamente. Esatto, rispetto alla sola. Era guardata era male. Madre. Guarda, io posso solo dirti, Stanislao, che mi è piaciuto tantissimo la cribbia, l'equilibrio del vostro giudizio complessivo. L'avete fatto, vi è piaciuto, riconoscete il merito, ma dite ci sono anche dei problemi. Per questo speriamo di tornare. Un abbraccio a te, tua moglie e ai vostri figli. E voi continuate su Radio 24, appuntamento con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli domani dalle 10 alle 12 con i conti della Belva.